Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Taranto e Piombino, due città il cui nome fa rima con crisi, crisi di un'industria pesante, quella dell'acciaio, che sembra una crisi inesorabile, destinata a concludersi con la scomparsa di questa attività industriale dalla penisola, dato che la competizione con concorrenti dotati di carbone in abbondanza e poche o nessuna legge ambientale appare quasi impossibile. Eppure una soluzione non facile, ma comunque realizzabile potrebbe esserci. Ha un nome: acciaio preridotto. Ci facciamo spiegare tutto da Carlo Mappelli, professore di siderurgia del Politecnico di Milano. Buonasera Mappelli. Buonasera. Allora, che cos'è questo acciaio preridotto? Cominciamo da qui. Il preridotto è del metallo ridotto a partire dai minerali ed è ottenuto per la separazione del ferro dall'ossigeno attraverso l'azione del monossido di carbonio e dell'idrogeno, che a loro volta sono ottenuti dal reforming o dal cracking del gas naturale. Cioè, ecco, mi corregga se sbaglio, diciamo così che il ferro che si estrae in natura è ruggine, cioè è completamente ossidato, in pratica è un blocco di ruggine. Bisogna tornare indietro. Questa cosa la si può ottenere o col calore o per via chimica, diciamo, esponendolo a questi sottoprodotti del metano, è giusto? Esattamente. Qual è il vantaggio allora di utilizzare quest'altro processo che fa uso di metano? Il vantaggio è anzitutto quello di arrivare alla separazione del metallo, del ferro, dall'ossigeno con un'emissione inferiore di anidride carbonica. Mm-hmm. A parità di tonnellate di metallo ridotto ottenuto si può ottenere una riduzione con un'emissione almeno del 64-66% inferiore di anidride carbonica. Il secondo è evitare la produzione del COC, che è il vero bubone ambientale di alcuni processi produzione. Ci ricordi che cos'è? Acciaio. Il COC è del carbon fossile distillato e il problema sta non tanto nel carbon COC, ma nella trasformazione dal carbon fossile al COC, con la produzione durante questa trasformazione per distillazione di idrocarburi policiclici aromatici e polveri che verranno progressivamente messi sotto delle soglie di limite emissivo inferiori da parte delle autorità competenti. Dove questo processo è diffuso e perché in Italia non si fa? Attualmente è diffuso in diversi paesi del mondo, tanto che si producono circa 80 milioni di tonnellate all'anno di preridotto nel mondo, con una proiezione al 2020 che dovrebbe essere intorno ai 120 milioni di tonnellate. In Italia e in Europa in generale non si fa perché tutto è legato all'approvvigionamento economico di gas naturale e attualmente si concentrano gli impianti in tutta la zona del Medio Oriente, del Golfo Persico e però con del Venezuela, però con importanti nuove installazioni che sono le maggiori al mondo negli Stati Uniti. Che però è la patria dello shale gas, appunto, quindi lei ha citato un insieme di paesi con dei costi del gas molto più bassi, è qui il punto, è qui il problema? Sì, è tutto legato al prezzo del costo del gas in Italia. Diciamo che oggi per tenere un'invarianza rispetto ai margini economici o di essi margini. Esatto. Quindi se il costo del gas scendesse, lì diventerebbe addirittura più economico. Però uno dice, vabbè, ma questo è il prezzo che noi paghiamo per il gas, che ci possiamo fare? Ad agosto c'è stato un prezzo del gas sul mercato spot che era di 18 centesimi al normal metro cubo, a cui vanno aggiunti 2 centesimi di oneri di trasporto, quindi saremmo stati a 20. Sui 20. Oggi saremo a 23. Ecco, questi mercati spot, che vuol dire per i non addetti ai lavori che io compro da una gasiera, cioè una nave piena di gas liquido, io mi compro una partita di gas e posso sceglierne una volta dall'Arabia Saudita, un'altra volendo dagli Stati Uniti, non lo so. Questo mercato oggi costa meno del gas che riceviamo attraverso i tubi e noi abbiamo le infrastrutture necessarie per approvvigionarci di queste partite spot di gas? Quello di sicuro, tra Rovigo con 8 miliardi di normal metri cubi, che è completamente fermo, con altri 4 miliardi, avremo 12 miliardi di normal metri cubi di gas. Quindi ampiamente possiamo utilizzare già queste nostre infrastrutture per il gas per cercare degli approvvigionamenti economici. Va bene, grazie Carlo Mappelli. Grazie a voi e buonasera a tutti. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani sera. Buona serata. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.